Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Va ad iniziare l'ultimo volume di Eclettica della settimana, in compagnia non solo di Giulio Caperdoni, che sta parlando, ma anche, in maniera del tutto virtuale ovviamente, di Nick Hornby e The Big Lebowski. Se posso spiegare perché volevo buttarmi dal tetto di un palazzo? Certo che posso spiegare perché volevo buttarmi dal tetto di un palazzo. Cavolo, non sono mica deficiente. Posso spiegarlo perché non è un fatto inspiegabile. È stata una scelta logica, la conseguenza di un pensiero fatto e finito. E neanche di un pensiero troppo serio. Non voglio dire che fosse un capriccio, solo che non era tremendamente complicato o angoscioso. Vediamo un po'. Immaginate di essere, che so, un vice direttore di banca di Guildford. Avevate già accarezzato l'idea di emigrare quando vi viene offerto un posto di direttore in una banca di Sydney. Beh, d'accordo che la scelta è abbastanza lineare, ma viene naturale rifletterci un momento, o no? Se non altro per capire se vi sentite di fare armi e bagagli, di lasciare amici e colleghi, di sradicare moglie e figli. Magari vi mettereste a sedere con carta e penna e stilereste una lista di pro e contro. Esempio, contro: genitori anziani, amici, golf club. Pro: più quattrini, migliore qualità della vita, casa indipendente con piscina, barbecue, eccetera. Mare, sole, niente consigli comunali di sinistra che vietano le filastrocche infantili politicamente scorrette, niente direttive UE che mettono al bando le salsicce britanniche, eccetera. Non c'è storia, che ne dite? Il golf club? Ma vi prego! Naturalmente i genitori anziani potrebbero imporvi uno stop di riflessione, ma niente di più. Uno stop, e neanche troppo lungo. Dopo 10 minuti sareste al telefono con l'agenzia di viaggi. Questo era l'incipit di Non buttiamoci giù, di Nick Hornby. As the sun rose up into the sky, and all I could hear was birdsong. And the hackneyed tones of Radio One, I knew something was wrong. And as I lay and tried to remember, with tightly closed eyes, I felt soft, warm fingers trace a course from the small of my back to the inside thigh. Bite your lip. Pretend you're asleep. In bed with your girlfriend again. I recall a bottle of vodka in past a man's friend. And a strange party piece with a Swiss army knife with me and your girlfriend. Is she your wife? I know my bedroom's white and this one's green, with posters of bands I hate.

New technology permits us to do very exciting things in interactive, erotic software. Way for the future, dude. 100% electronic. Well, I still jerk off manually. Tanto così, quasi dal nulla, compaiono queste piccolissime etichette con non una ma una serie di proposte interessanti. Per esempio, di recente è successo con la The Green UFOs, piccolissima etichetta spagnola che è presente in queste settimane in Eclettica con ben 2 album. Uno di questi è l'album che ha aperto Eclettica quest'oggi. Il nome del progetto è At Swim Two Birds, un progetto inglese di base a Manchester. Che ci siamo ascoltati con le sue delicate atmosfere nei primi minuti di trasmissione. Poi siamo rimasti comunque in Inghilterra e siamo ritornati ad ascoltare dopo parecchio tempo che non lo facevamo The Ponies, ed ora, cosa abbastanza inconsueta in una trasmissione comunque dove la geografia non rappresenta un limite, ci trasferiamo dalle parti della Svizzera, The Young Gods. Que c'est quoi, c'est toi? Qu'est-ce que c'est quoi, c'est ça? What time is space now? What time is space? Qu'est-ce que c'est une émeute? as you sit down, give me your fist fight. Shake your silver eye and clean your blinds. Where is your shit down? Take care, you monster. Here is your digit game, I'm buying and high. Bene, io mi sentivo così. In breve, non avevo abbastanza motivi per fermarmi e ne avevo in quantità per buttarmi. Nella lista dei miei contro c'erano solo le bambine, ma non era neanche da pensare che Cindy mi permettesse di rivederle. Non ho genitori anziani e non gioco a golf. Il suicidio era la mia Sydney. E lo dico senza offesa per le bravissime persone che vivono a Sydney. Questo era ancora l'incipit di Non buttiamoci giù di Nick Hornby. Do you think that if you were falling in space, that you would slow down after a while or go faster and faster? Faster and faster. For a long time you wouldn't feel anything. Then you burst into fire. Forever. And the angels will help you. Cause they've all gone away. Pride, because it began to fancy the words I mistakenly jostled. loose. The stogie he brazenly lit where he sit looked legit, but when the flame touched on the tip, I could smell it to another nit. He leaned his head back and inhaled the newbie dip and said the whole design got my mind crying. If I'm lying, I'm dying. Shit. This is the sound of what you don't know killing you. This is the sound of what you don't believe still true. This is the sound of what you don't want selling you. Motherfucker, cop a filler too. This is the sound of what you don't know killing you. This is the sound of what you don't believe in. This is the sound of what you don't want selling you. TPC, motherfucker, cop a filler too. You're not even fucking Jewish, man. What the fuck are you talking about? You're fucking Polish Catholic. What the fuck are you talking about? I converted when I married Cynthia. Yeah. Come on, dude. Yeah. You know this. Yeah, and 5 fucking years ago, you were divorced. So what do you say? When you get divorced, you turn in your library card, you get a new license, you stop being Jewish? fear of despair. There's a world outside your door that you want to know and wish you'd go. For us.